Eccomi, Radio 12. Hola, hola, hola. Hola, binario 12. Prego, prego, prego. Hola. Prego. Prego, binario 12. Attento, binario 12. Si muovono le stazionali. Ascolta, ci devo già fatto, Già fatto. Ho copiato il computer, sì. Lei, ma non è mangiato. Adesso. In uso le stazionali salivano perché non c'è il radiale, lo sai. Ma voi lo mangiare già. Cavola, comunque va benissimo, ecco. Di lusso. Tutti gli amici, a vedere le braccia, uno e due, di tutti, che faccio, e che la domenica è basta, mi rimango i camici e la porta baronno. Oh, a me neanche la camicia non mi ha tirato, sai, mi metto quella in jeans, un'altra che ce l'ho a righette, però le altre per dire, anche le billerà piccola, poi non me le pongo. Mi piacciono più le magliette, dico la verità. Magliette vanno qua a garage, ma magliette vanno in questi schizzi. Se già ne ho anche io, abbastanza. Mi piacciono molto. A me piacciono molto quelle fila perché durano anche un bel fila, la costa, quelli durano un casino, le paghi ma poi durano. Quello col coccodrillo c'ho anche. E allora prima si mi aveva tirato una duccia, bella mi leggera. Una mia parte gli ha portato a me a mettermi l'elastico, però giù, nei rigami. Mi è andata a sura, mi ha cedurato a piccare, sì, già ti metto. E poi si buono la busta e c'è la tuta di marzo, giacca, pantaloni, la maglietta di da bianca, con le fino a blu. Certo è ancora tu biglietto come c'è di bufata a casa e di busto uraio ti sto completo ci sono da picciare. Io mi fisso con una cosa, no, non mi piace, ma di una cosa mi pongo sempre chissà chi, ma mia moglie mi dice ne hai mille di cose, perché non più non cambi? Che è bella sì, ma poi è troppo stupido. E io lo penso, il solito mi pongo gli jeans, una maglietta me la chiamo mia lì, ho quelle latemisi, nere, bianche, poi ho quelle basse, grigie, moderne, mi ha ribussi due o tre buchi. Ma tu, cosa sto facendo, mamma, mi vivi, ma cosa mi napputo? Mi portate che sia pulito, a voi, sono mi carista. Solo che io sono quel bicho maledetto, no, ande, no, a un lego se batti se mi occupassi, non so come mi viene il registro, ma come se mi lo dico, non è per la piccola, non me ne butto. Anche io molte cose sono così, le metto da parte, mi dice, ma quando con quella roba mia moglie non te la metti mai, e la troverò il tempo a mettere. E io sono lo stesso, ma la roba di base, è un bel naturato, a te di scappare il cuffio e niente armato, io ce ne muovo un po', è molto allogata, non pure roba roba se ti ha mai messo, ma... Se ho fatto questo cosa vuoi dire? Ho un rapido, me la pongo una volta, di volte non me ne pongo più. È un'abitudine, dai. È abitudine. Come ti lavi di cane, vai? E allora, se porti i figli. Figli, la buona una voce e la buona una bassa. No, non li buoni ne punto, so come per me, un bene, la pena nei nostri nipoti. Sì, sì, sì. Ma anche io sono qui, io mi fisso per dire mi piace una cosa e mi piace mettere e metto quello lì, poi li cambiamo di lavamela che me la devo rimettere per dire la prossima settimana. Quindi a mirare di così la roba la consumi nel frasigheggi e non ti godi più. Ma ora me no. Mi, altro l'altro giorno che sono uscito a stesso con mia moglie, si ha pigliato roba e da dire io mi ho pigliato un pacco di mondate, sono quelli, pure nella perdita che dà se va via prima, cosa cazzo, ma e per me quando si scolorisco non mi piacciono più. Grazie, un attimo che devo andare in bagno. Sento dottor Gianni doppio room. Eh sì. Buonasera. Ciao, chi sei che non ti ho riconosciuto? All'agricola sono. All'agricola? Da lei. È andata a cambiare l'acqua alle olive. Chi è che chiama? avanti. Bene, dottore, come stai? Presto, chi è? Vieni, quando ti trovo ti faccio biondo. E costui? Quanto ore sono? Mi stai anche riconoscendo? No, non ti riconosco. Se ti presenti, magari ti riconosco. Barra agricola sono, Gianni. Gianni, invecchiando stai. Cazzo, che radio l'offre che ci ha salvato. Non sono abituato a sentirti così, Vabbè. Gianni. Dove sei? Sono. Ma adesso già ho capito dove sei tu. Ma dove sei? A casa tua? Ho sono venuto a trovare a signor Luigi. Che però. Che voce strana che ti fa questo apparato, di solito ti senti forse per guidare. Attenzione, doppia luce, mi ascolti, cappa! Cazzo, sei tutti così, tutto serio. Perché sei così serio? L'ho malato, sì. Yeah. È per di stellina. Così è. Ciao, guarda. Avanti, grazie. Eia, ciao ragazza, non lo sai, ma papà, siamo guapo, non fa guapo. Ma che fa quello, non è che per un controllo, avanti. Avanti che ha beccato. Papà Rogero, buonasera, Sandro Langhero. Ciao, come? Ho sentito, vai. Non puoi guardare questa parte, vai. Capacino, fatemi un greco per un controllo, che stavo provando un attimino l'antenna che avevo dovuto tirarle giù, le ho un attimino sistemato. E ti stavo mettendo una portante, con io non posso farci nulla, prova. Quanto ti arriva, grazie a te. Non l'ho visto. Stai guarda, vedi. Aspetta, se rientra guardo, ma mi pare che è 9.30. Vabbè. Avanti, avanti con di nuovo, se ti lascia parlare. Guarda, non lo fa parlare, tu lo passi. No, che gusto di merda. Voglio lasciarlo trattare, è tantissimo sporco. Dani, se mi ascolti puoi entrare a vedere quel coso che ti ho mandato, che ti ho dato, Ma adesso chi se lo ricorda l'indirizzo? Che cavolo già, Me lo hanno segnato da qualche parte, questo che controllo, se me lo segnato da qualche parte. Me lo hanno segnato in un quadernino. Ciao Gigi. Ciao. Stavo mettendo la portata, ma già passi, la passo io oggi. Insomma, già passi, perché sta mettendo la portata, chi è questo che mi fa la portata? Facendo apposta, dai, non sarà qualche età, facendo qualche prova, qualcosa. Non c'è nessuno in modulazione, la frequenza è morta, penso che mettano portante, non c'è più bisogno di mettere portante, tanto è morta di sera la frequenza. Ma, Giulia, siamo due grappi e due piccoli, a portante, Giulia. C'ero io già nell'uncino, se l'uncino è andata insieme per un battesimo alla crisma. È positivo, ma Sandro c'è, Sandro mi ascolti, Sandro? Comunque ciao Luigi. Ciao già. Com'è il segnale da te, il mio segnale? Ma io lo stavo guardando. Prova a vedere, che ti è stato più radiato. Cavolo, ho aumentato. Se tu sei normale, sei come andavi sempre, cavolo, non è più di 9.30 qua, quasi. Come andavo sempre lui? Ho messo i radiali, e anche dalla settimana me ne avevo accorto, eravamo 1.05, 1.06 a volte, adesso c'è 1.01. cerca non contare nulla in radiale, altro chi conta ne aguglia, anche le stazionali sono diminuite. Certamente se ci sono vuol dire che ci vogliono già, se ci sono vuol dire che no non l'avrebbero messo. Questa volta lo legati anche con la lenza, balla. C'era già la cornacchia di là, te le immagini? Pare che me la intendo. E bisogna prenderne una e appenderla vicino, legarla appesa a testa in giù, vedi non se ne avvicina neanche una. Ovvero, bisogna puntare la carabina, la anduana e pum! E così bisogna fare. Bisogna fare così, capito? Io, va bene, con l'altro, se io ce l'ho tolto, se le prendo me le mangio. Le tolte sono più leggere però lui, la cornacchia è più pesante, più massiccia. Sì, sì, ora è positivo. No, sono entrato poco fa a vederlo, stavo guardando, però non ho guardato tutto perché ce ne sono troppo, è troppo, e ho guardato un po', ne ho guardato, dai. E hai ripreso a divertirti così? Sì. Ci sono... adesso non lo so se farlo vedere a Salvatore, ma se vede quelle funzioni, questo qua non lo so io cosa succede. Se vede quelle brasiliane, questo non so cosa gli succede. Salvatore, che fine hai fatto? Stai lavorando, Gianni. E prima lavoravi, ma modulavi pure. Che ne ha tempo adesso? Mia adesso a mattina ho ripreso a tagliare fieno, ma non posso stare sempre parlando al baracchino con il trattore perché avevo tagliato fieno, lo volevo accendere soltanto che c'erano un pietre e mi è associato la macchina a tagliare il fieno. Beh, bisogna stare anche attenti al volacco, hai ragione anche tu. Ma almeno per fare cucù ogni tanto. Devo venire anche a trovarti a casa tua, ho detto, ma Gianni, ero la settimana scorsa ero vicino a casa tua che stavo facendo un corso per il benessere degli animali, per le pecore, che adesso le pecore bisogna trattarle al palmo di mano. Quindi Stellina, come fa con Stellina? Te la tratta prima? Tira, vai. Te la violentavi? Via, sì. Gianni. E quindi Salvatore, ha fatto il corso, dove l'avete fatto questo corso? La casa tua, dove c'è la guardia di finanza. Ah, ho capito, sì. E abbiamo, chi ve l'ha fatto? Come si chiama? Confagricoltura, roba del genere. La lavora, tutti gli anni bisogna fare questo corso per come si tiene l'animale. Adesso d'estate ci hanno detto di fare la lettiera, ma la lettiera, quando li fai la lettiera, la pecora non dorme in mezzo alla paglia adesso perché c'è caldo. La pecora cerca frese, fresco, non si va a coricarsi nella paglia. E siamo tutti leggenti sotto l'albero. D'inverno invece bisogna portargli la balla di paglia dove va a coricarsi. Hanno fatto delle leggi, ma delle leggi che fanno ridere. E io lo so da un amico che trasporta animali col camion, che trasporta atturi, mucche, roba del genere, no? E ogni tot di chilometri deve farli scendere, lui e degli amici, me l'ha detto lui questo qua, deve farli scendere, farli pascolare un po', pulire tutto il camion e rifarli salire per legge. Lui lavora a Bonassai, dove ci sono tutti quegli animali e cose, e li trasporta, l'ho capito, lui li trasporta col camion. Gli animali che sono, se sono agnelli che devono ammazzare, non li può far scendere, intanto la pecora è poco intelligente a ritornare a salire. Se la fai scendere dopo, gli fa girare la testa. Ma lui infatti l'ha detto, se fossero stati animali tranquilli, cazzo, ma a volte c'è otturi, c'è mucche, vitelli, cazzo, come ti fai che non hai 10, 15 a farli scendere e farli risalire da solo poi? È un casino, dice, non è possibile, le leggi che fanno. Gli hanno fatto fare il camion con qualcosa per scaricare tutta l'urina che rimane in pendenza, tutto così deve essere adesso. Già lo so, ma se il mio ministro dice che adesso mi sembra che non si possono ammazzare più animali, è protetto il cavallo, è protetta la pecora, è protetto il maiale e anche gli agnelli e altri animali, tutti gli animali sono protetti, non li puoi toccare manco uno. Basta ammazzare a chi ha fatto la legge e così ci mangiamo lì. E quella viene un po' male a mangiarla. Che brodo! Graziano, rientratoci. No, mi sto facendo la glicemia, 152. Ai ai ai, mangiato hai? Ehi, ha cambiato il menù perché non sto sempre in campagna. Agnello in forno con le patate, spaghetti alle vongole. Non ti sei trattato mai, dai. ma la glicemia sale così, occhio. 160, quando lo stavo tirando gli unici si possono gridare piano, piano, ma piano. Guarda l'amico, lo stesso con il cuoto, l'ha tirato, ci ha tratto il pugno nel fianco da quando stava correndo col cuoto, mi voleva far spaventare, ma non me l'ha fatto spaventare però. Allora, quello lì io un po' non lo vedo molto stabile. Chi si riprende in mano vedrai che già cammina anche il cuoto, è pericoloso, perché è pericoloso, però bisogna prenderlo in mano. Lo so che cammina, però la stabilità non è come quella di una moto. Io con la moto, tu mi dai due ruote, la moto è... No, ma è più... Io la trovo più stabile di quella. Perché la vedo, io ne ho visto gente che si ha salvato a due ruote, è allucinante. Quad a due ruote facendo la curva. Cavolo. Organizzare. No. Io ho visto una greffa, dove era? Verso Capocaccia, quella zona lì. Erano tutti con l'antenna del baracchino, c'erano i baracchini, tutti con il quad, ma erano 600. Tutti pieni di fango, dove si sono andati a fare tipo trial, roba del genere. Anni, ma l'amicizia di Barracicola ce l'hai tu? Non ce l'ho perché non l'ho mai trovato a Barracicola, non ho mai cercato la verità. Perché cosa c'ha computer Barracicola? Ma cavolo! Guarda l'unico che c'è nella provincia di Sassari con la pecora e con l'ottellina in braccio. Ce l'ha in braccio, guarda, ma tu come sei messo tu? Tu cosa c'hai? Gmail. Cosa sei? Turra, te l'ho fatto. Pellina in braccio, Emmy. Aspetta che lo cerco, va. Grazie, ripeto. Eia! È finito adesso. E beh, lui, e allora? E allora te meno che grazie a me. Ma attende un poco di tempo. Così ce lo va a prendere. Ti vedi? Facendo un poco di tempo, vabbè, Salvatore è giunto a Ciappale. Ah, ragazza, come mi occupi con questo apparato, lui? Abbastanza bene, grazie. Abbastanza bene. Direi benissimo. Ah, fai solo che adoffro nella macchina, al 4008, Golda Tech, 40 canali. È positivo, già va bene, perfetto. Ma di solito cosa lo fai tu perché, oh grazie? In casa qua c'ho l'inuiti che c'ha 40 canali giù e 40 canali su, AM e FM. Poi c'ho lo Zodiac, sono quello che c'ha Gio Maria, uguale Gemello, il M50 316 per 30. Quello lo adopero con il microfono da tavola, l'MP4, MB4. È positivo, positivo. Ah, vabbè, ora adesso ho un gas a tornecco, sto adoperando con il microfono MB+5. Ma ragazza, me ne deve portare uno, mio fratello. Il auto in una macchina vecchia senza microfono a controllarlo se funziona. È positivo, positivo. E se non lo già funziona, quando la andiamo a controllatina. Ehi, adesso me lo porterà domani, sta lavorando. E mentre non c'è il microfono, la gente portalo, lo guardiamo a vedere. All'inizio te lo piace in casa tua. Perché gli avevo dato tempo fa una base magnetica, perché tanti anni fa lui pure usciva, poi non è più uscito, non so se l'hai mai copiato. Il nominativo si chiamava Matra, io si occupavo di tenni più di 30 anni fa, perché è più grande di me anche. Non mi ricordo. Luigi, mica gli ho mandato la ricchezza d'amicizia, se ce l'ha preso internet con il telefono, dov'è? Lì di accettare. accertare perché ha detto c'è la deve caricare adesso, scarico, c'è il telefono col computer, il computer c'ha il virus, capito? Non ha fatto il vaccino e si è preso il virus. Ma sai Luigi che il circuito elettronico non lo fanno più, sono dovuto stamattina ordinare tramite il computer. Sai che il bene non ha fatto, ho detto che non vede più, grazie. Circuito elettronico al giornale, non lo fanno più, solo tramite richiesta. Io stamattina me l'ho fatto richiedere e mi è arrivato in mese. Ah, positivo, positivo. Gianni, non l'hai trovato quell'affare là? No, lui, l'indirizzo non so dove l'ho segnato, non me lo ricordo più. L'ho segnato da qualche parte ma non mi ricordo dove. Se era nel taccuino, adesso guardato il taccuino non riesco a trovarlo. Sicuramente è segnato da qualche parte ma non so dove l'ho messo. E gaffa gaffa. Perché ti devi tenere un'agendina lì a portata di mano e ti segni tutte le cose, le barattini, tutto quanto. C'è anche quella, grazie, qua nella scrivania. E tu lì te lo dovevi segnare, grazie, guarda a Giulio, che c'ha anche tutte le voci di alcune persone, voci errate, lasciatemi la di su poco, ci hanno fatto un poco dei risati. I bagni che fanno i bagni. Quando parli per sbagli, Giulio ce lo segna. Ho capito, eh. Andare, vabbè, non bisogna stare attenti come si parla, eh. Perché poi si scrive nel libro nero, poi ci divertiamo a sentire le voci errate. Tanto bisogna andare di darmo un fatto. Ma la fate ascoltare in radio? Oh, se tu dici una parola, no, magari la sbagli, no, capito. Lui se ne scrive, no, poi a te andare già te le dice, cioè magari a te no, a me sì, e se forma di un risate, no, compri. Sì, quello ho capito, ma ti ho chiesto, le avete in radio queste parole o no? Le avete a me, beh, logicamente senza fare nulla. Carrino. Cazzo, lui mi ha detto, indovina se lo conosci, ma adesso solo due, l'ha detto, boh, basta, ti ho preso, dai. E ce n'erano parecchi che sbagliavano, anche gente che non c'è più. Parlando lo facevano crepare, a ridere. Via. I burroni, il cambio. La maggior parte non ci sono più, però a risentire quelle voci che ho sentito, certo veniva di bisciarsi giù, da tuttora di tuttora anche quando lo vedo, quelle persone sono così, non hanno chiamato, e non avranno chiamato mai, oramai sono andati così. Vabbè. E vabbè, ce l'ha proprio anche Claudio il libro, lo dovevamo far uscire il libro del CB, e aveva messo, però lui aveva collegato le cose, praticamente tutti gli sbagli che facevano, le parole le collegavano, però con un nesso, capito, faceva tutta la storiella. Ah no, io non me lo ritrovo, c'avevo un'agenda dove era scritto tutto quanto, come modulare frequenza a 12. Cazzo non mi raga tu di vista a montina di mi sei scivo, sarà in garage quando ce l'avevo sceso tutto, oppure sopra il soffatto, c'è un altro casino lì, avrei poco roba, ma mi metto il manco di tutto il vivere. Sì, vabbè, già sono cose belle. Comunque Luigi me la dovrei fare avere quell'indirizzo di nuovo, se non lo trovo che lo voglio vedere. Sono curioso e entusiasta di vederlo. Sì, c'è pazienza. io vivo ore e ore a vederle tutte. Sì, se non ti impressiona, se non ti impressiona certe cose che si fanno, che si vedono, madonna. Impressionarmi non mi impressionano, al limite mi posso risvegliare la libidine. Il problema è che io li ho visti dal vivo e tu li vedi un po'. Allora io avevo visto le donne cioccolato, quelle che cantavano con le sottotrate, ma con attesa le sottotrate, quella che ha fatto il clarinetto, come si chiama, vabbè, con Arbore, te lo dico, di che cantavano le ragazze cioccolato, quelle brasiliane, senza duro di Ratirocchi, a Stentino erano, ha detto chi vuol mandare la lampada con me? Senza duro di Ratirocchi, si bruciava per sciopparone, allora normalmente come si chiamava, a Mezzucchino, boh, una cosa del genere, e ha detto no, Mezzucchino, fammi lo vedere che sei, tanto comincia a friare, isso, più si avvicinava Edo, più si avvicinava Edo, cioè è una cosa allucinante, era proprio pornografico il ballo. Cacao, meravigliao. Esatto, si chiamano le ragazze cioccolato. E abbiamo fatto la festa a Stintino e eravamo andati a vederle. Ma che colpi lui, da sogno e da sogno, colpi da sogno. Lo so, lo faccio. E che queste scherzano, Pelle asciutte, con la pancia piatta, proprio non c'era un filo di cellulite nuda, proprio perfette. Lo so. Grazie, su niente sì. Tu non hai visto da giovane a Moana Puzzi, prendi loro strippitisti a Milano, con la bandiera tricolore, c'era tutta la filata. Allora ti pagava 50.000 lire. Come l'hanno fatta? L'ha aperto, no? No, un coso, come si chiama? Un cabarida. Ah, si è davvero un cabarida, capito. E tu gli dici che andavi molto spesso a spettacoli, abbinavi lavoro e spettacolo, Lucia? Sì, non era uno spettacolo, era un cabaret strippitissimo però. Capito, c'erano tutte le bandiere del mondo, americane, di tutti le razze virali. Le bandiere corrispondevano alla donna, così? Sì, poi faceva di mano ognuna e prendevano uno dal pubblico. Io cadevo sopra il palco e gli dammi di andare, come ti può far passare? Fino al mondo. E quelle già sono cose belle da vedere, lo dici? Sono cose da non perdere. Tanto nella vita si vive una volta solo, un po' di divertimento non fa male, Io sono troppo serioso in questi locali, non ci vado, dico la verità, però chi ci va lo apprezzo perché si gode la vita. Vabbè, io sono andato da giovane, non mi parlava, ma da giovane, quando capitava l'occasione, davvero, capitava, mi informavo, chiedevo, già mi divertivo. Scusa, grazie all'abiti di un bizzone da giovane, non si è mai da uscirmi lui. Già, stavo dicendo, ma tu la amicizia mia ce l'hai? Sì, mi sembra di sì lui. Guarda che ci ho messo 3 o 4 foto di gruppo di quella festa lì, se vuoi te la controllare. Se non me lo ricordo, se non ce l'ho te la segno, dai. Tanto tu sei segnato come Luigi il cognome, vero? Sì, Luigi Vulcano, sì, è stato il nome, il cognome lo sai mia. Ma sì, ma mi pare che tu abbia cognome e nome, non è come Vulcano, ma è come Lupo. Ia. Sì. Grazie. La mitraglia ha conosciuto lei tanti anni fa, e anche Barabba. Mitraglia, addirittura non lo dica lui. Con le mitraglie, poi gli ho battezzato un altro perché mi ricordavo di lui. Tanto gli ho battezzato un altro. pure a fare a me, non lo so che ti abbia fatto. Sì, quello già lo sapevo. E poi me Gianni Citta, conosciuto a Gianni? Citta, come la scimmia di Tarzan, Citta. Non Ragno, no, non Gianni Ragno, no. Oh, Gianni Citta, adesso abita al ghiero, non l'ho più visto in Santo Marco. Ragno, dai, era Gianni Ragno, lo figlio di Sana, di Trimpito, me. No, Gianni, chi sono i ragni? Gianni, di dove il muscio? Mi lo come l'orito. Ah, ah, eia. No, stato che tu lo dici, ci vedi, alle vengo, mi ha tanto. Mi saluto, e gli ha fatto vedere un buco. Vabbè, sto entrando ancora, l'ho acceso adesso perché l'avevo spento. Anda buono, anda buono, www.fotografie-d'autore. Sì, l'ha detto tre più oggi in giornale. Già le dite che è bloccata ancora. Sì, abbiamo un tavolo di terra di transenni. Siamo passati nella blaga, tra giudizio, già è finito, stiamo prendendo un giro l'accurato. No, ava passa la storia, ami, ui ui. Non ho capito, no, da te, l'ho detto. Che stai dicendo? Grazie, ho capito nel giornale. Positivo, che ti sento bene, ma lo devi callire, cosa devi fare sempre prima. Aneddu, grazie Aneddu. Ehi, no, mi ha attaccato l'orzo di Accanetto, col microfono alla tavola. Anche chi ti ha buttato, poi l'ha girato. Se non me l'avessi detto, non me ne sarei accorto. No, negativo, non mi fa entrare lui, non mi fa entrare, non capisco il perché. Non mi considera l'appasso, se ho messo l'appasso lui mi ha per entrare non me la considera. Aspetta un attimino, MG hai messo, invece metterlo MG, sì, MG e poi 2000, capito? No, perché tu magari conosci la pagina, capito? Qua mi si è presentata la pagina di Google, eccetera, eccetera, mi ha chiesto la password, non ho messo la password e non mi fa continuare. Ma vedete se l'hai fatto giusto, ma tu non avremo magica giornata, nome utente e magica giornata, il nome utente. Capito già? Ecco perché. Io mettevo la mia password. Adesso lo spento, io lo guardo dopo. Perché mettevo la mia password, io ho capito, pensando di dover entrare la mia password, per cui magari mettere quella lì, invece no, direttamente quella lì. Ti ho dato tutto la password, ti ho dato tutto, hai capito? Con questo devi entrare, con questa password, capito? Con questa qua devi entrare, non con la tua, in internet, no, in coso, in internet e te lo dà, capito? Spostato il tassino in FM, cazzo, Maria rimbusata di nuovo. invece è la cosa che smarra di traverso, di un po' in verticale, mi scende un po' di traverso, dove c'è scritto e poi c'è il vento. È così, giusto così. La barra. D'autore di apostrofo autore invece, o tutto attaccato d'autore? No, tutto attaccato d'autore, allora fotografie, tutto attaccato d'autore, tutto attaccato, e poi magica giornata, tutto attaccato, capito, tutto attaccato, magica giornata. E tu questa roba l'hai detto, io d'autore ho messo di apostrofo autore, come si scrive normalmente, capito? L'ho scritto così, di apostrofo autore. Oh, no, tutto attaccato, e magica giornata, lo stesso tutto attaccato. Già lo vedrò, adesso aspetto tutto. Sono un po' stanco perché stamattina abbiamo fatto dalle 11 sino all'una e mezza, alle 2, sempre sul tetto. Sì, ma quando vedi quello ti passa tutta la stanchezza. È un gioco, via. Kappa. Non lo posso immaginare comunque com'è, perché una volta hanno portato questo amico mio al Caos, questo amico mio è molto molto vergognoso, e l'hanno portato al Caos, non gli hanno detto che tipo di locale era, gli hanno detto era una discoteca così, invece era un night, e c'erano tutte le tipe, dice, in perizoma, se non lui e cosa, e a un certo punto gli hanno detto a questa qua, gli hanno messo i soldi, questo amico, e gli hanno detto di andare a sedersi sopra a questo amico nostro, e con il sedere si muoveva tutta qua, te lo strofinava, che se ne va a dormire come te lo bevano. È positivo, positivo. No, beh, dura, mi dura parecchio, io sono stato un bel po' un'oretta, guardate, poi mi sono staccato. Bello, ci sono tante, tutta la decina dalla mattina sino alla sera, tardi, sempre facendo, hanno fatto sempre queste foto, dalla mattina alla sera, tardi, Sempre le stesse. No, a me l'hanno fatto tutto l'evento è stato fatto, vedi, tutta la giornata, hai capito? E tutti i momenti, dai, da hai capito, no? Non sembra stata fotografia, no? Sono tutte le cose, ma sono state fatte invece, capito, tutta la giornata, no? Sì, sì, ho capito. Loro hanno fatto solo una parte di spettacolo, però hanno fotografato, ma sono fotografie pure filmati pure. Ho visto fotografie solo adesso, e non sono visto perché penso che ci siano anche filmati, non lo so. Comunque insomma le fotografie ci sono, ce ne sono anche troppe, un infinità, e ci sono tutti i gruppi, tutti quanti ci sono, dai, di tutti quanti, di quelli che c'erano presenti ci sono le foto, a parte tutto quanto l'evento, di queste qua non finiva più, perché tanto c'era tutto il giorno, dalla mattina alla sera, capito, e ci sono sempre, e più tutte altre cose, capito, poi di lì puoi spostare e vedere quello che vuoi, oggi te ne guardi una parte e un altro giorno te ne guardi un'altra parte. Infatti, non sono riuscito, perché io ho scritto d'autore di apostrofo autore, capito? Come si scrive, tu non mi hai detto che era tutto attaccato. È quello lì che non ti abbiamo fatto entrare, sicuramente. E poi dico, non l'ho fatto neanche io, l'ha fatto come si chiama, è entrato subito, ha copiato quello che c'è scritto qua, è entrata subito. Le altre volte non faceva entrare neanche a me, adesso poi è entrata la prima, come l'ha dettato, è entrata. In internet non deve andare in Facebook, non c'è bisogno, digiti questa cosa qua e entri. Sì, dove si scrivono i siti? Capito come si fa. Manu! Grazie! Ehi, narami tutto, te lo scrivi adesso così te lo ricordi. Una ricindagana, ti buoni e ti diverti. Cavagara, sì, infatti. Ehi, vabbè. perché lui anche l'ha vissuta la cosa, quindi quando la riguarda la rivive. Beh, è logico, è come con la telecamera, quando mi guardo le riprese che ho fatto, la rivivi. Beh, certo. E domani oggi in campagna. Eia, ci sarà buffato di Santina, ma ci ha amato. Maria, sottoterra Maria, ma di avanti quello che andava a sentire il fuoco, però l'aria era nuvolosa. Adesso non so se era verso mezzogiorno, una cosa del genere. Perché io sono uscito quando sono rientrato, l'ho acceso. E ha fatto una spazzolata all'agentizio. Io sono andato sul tetto, quando sono andato sul tetto, stava più vigilando. Infatti, mi ha detto, mi sa che a quel che arrivi leva, che andava a sentire un buco. Però poi non l'ho più sentito. Sarà ancora in campagna. Lui non è il tipo che se ne sale tardi. Io penso che alle 6 se ne torna. Beh, sarà ben più flacco. Quando torna, avanti. E aspetta, ho memorizzato la cosa, ci ho sbagliato, mannaggia, ci ho buttato un po' sbagliato. Avrà fatto una buffata della Zanzina, avanti di 3 dì, i segni della Zanzina. A me ogni giorno me ne vogliono prendere le sardine, ogni giorno, e voi sardine già, mamma mia. Ma mica ti stufa, se le mangi spesso. Non rimane, però mi piace lo profumo. A me già mi piacciono un bel pure. Anche fatte in salamuia, così arrosto. Mi piacciono le impanate, fatto il filetto di impanato, così le faceva mamma. Mamma li vedeva impanati, erano troppo buoni. Pure la buona mamma di mia madre, anche io qua li faccio, però non ne mangio, non mi... Prima, tanti anni fa già rimaniavo, io un po' di cosa mangiavo prima. Poi che mi sono ammalato un po' più alla banca, allora un po' di cose non le posso mangiare e non le mangio. L'assaggio magari, però a mangiarla no. Come già mi piace, solo che non la digerisco il verde, se il verde mi piace con limone sopra e cose, però non la digerisco. Ma la dolce, trappa da uscirmi, è pesante, mi secondo quanto rimani a mezz'ora e tolta la digerire, a meno che non ti dai un aiutino con quel liquore amaro, Yale Master o il Cinar, allora sì. Petrus. Anche Petrus va bene, basta che vedi i bicchierini d'amaro e sei a posto, già ti fa digerire. Ma non ti piacciono proprio, in realtà non le mai mangiate pensando che non ti piacciono? No, prima di amarmi per tutta la pancia, che era già per casa di mamma, poi che mi hanno incubiato che va via quel morbo di Crohn, non le ho più mangiate. Già mi piacciono, solo che a volte mi rimango sullo stomaco in verde, mi adanto mi piace con limone. Lo so, ma io molto mangio il polpo, i calamari fatti con il sughetto, che dovrei mangiare normale senza pane, non mi piace, dico questo bevarone per un po'. Poi le cozze, arselle, chissà cosa uccide la magno, gambe di se mi fosse bruciato la memoria, e poi si parla di più. Ehi, anche a me piacciono i molluschi e i frutti di mare, piacciono anche a me. Tutti quelli che ho incatto mi piacciono molto. Il pesce non è che mi incasciasse, però già lo mangio, non è che non lo mangio. Non mi incascia più di tanto, a me è più l'algare, sembro più carnivoro. Anche come carne devo mangiare solo carne rossa io. Anche pollo, però senza abusarne di carne bianca. E più carne anche che sono più sane. Ma se ne mangi molto qua gli animali, perché io c'ho il morbo di Crohn, ma l'intestino. Mi dice sempre mangiare carne bianche, non mangiare carne rosse, lo mangio romante e sì. C'è qualcosa che lo so, e allora bisogna, e non penso che tu quando dici che le buone peperone le fosse tanto bene, non penso, io penso che il peperone non sia consigliato per te. Un attimo di piano, devo mangiare cosa piccante, è proprio banale, ma con tuo dieta devo mangiare sempre in bianco, neanche col burro. Fanno più a lungo che si mangiano il riso. Già lo so, ma io non posso stare a mangiare sempre il riso, cazzo. Io non ho riposto il pieno, cazzo. E cosa devo... No, già tra sé. Ogni tanto già me lo faccio, non è che non me lo faccio. Una volta alla settimana, due volte, cazzo, ma non te ne vara. Sicuro verrebbe il fondo. Siete passati in giapponese. Buonasera comunque Luigi, buonasera Graziano. La sardina buona era. Aspetta, faceva schifo. Inteso, già, faceva schifo la sardina. No, fate schifo che è buona la sardina. Poi oggi ha già fatto pure un coso barro sì, fuori ha dato pure miglia che ha già tanto paria che è in coscia la faeva, invece ha fatto buono, è buono, di no che più o meno non ha fatti, non sa valeva, ha fatto i nutti, appena anche tutti ci si mangiava, ma ne manco pure. E poi durante la dieta è stato tutta la di buona luce, un po' di tre chietto così, ma se già deve. Il commissario Polinazzo Brandalsi alla Galiglia ha cominciato a ricucciolare piazza, ma in ora buona piazza. Ma non era roba fresca, si costava roba fresca. Si tagliava mentre a toccava gli rende la carta, si fasciava, non era buono, no? Oh, faceva saore, una piazza ora, si vede che era seduta da un gronco, mi sa da Cina. Ma che cosa è passata in frizze, Gio Marì? In frizze era allora? Ma detto mai, io lo so a frizze non mai, ma si vede che era in frizze quando l'hanno messa a vendere, capito? Perché mi sembra strano, è così, anche se sono fresche, i gatto non si taglia regando il tuo non si deve tagliare, ma io si tagliava a frizze, poi non aveva lo suo sapore. No, non è roba di qua, no, assolutamente. Era bene, sembravano bene. Magari forse in verde sarebbe stata diversa la questione, ma sulla carticola no. Oh. Allora, Giovanni, io, il capite già voce me ne dà, se ne me ne regareggia, ne dà, sono dei miei figliori, cose che travagliava a cuoco, le pescherici, cose del genere. E quando non me la pugno in frizze, però questa che io pugno in frizze, cosa fa Dio, Giovanni, in verde? Mai va la russa che si fa via tutta canta, non è cavata sopra la graviglia, non era cavi, Gio Marì, proprio si frantumava tutta, solamente il verde la puoi fare, tanto la sorgente la puoi fare in versi, compresi, invece quando la vedi fresca, tu, la cavettria dalla graviglia, hai compreso, quando è bella fresca. Ma è così, anche te, la roba fresca la si vede, no, ma questa non è, chi ci ha già fatto la ricetta? E dopo è la bocca vendita, capito? solo in verde magari poteva andare bene, ma rossa così non è possibile. Allora l'abbiamo quasi qua buttata, avevamo due chiate in realtà, le chiate ne hanno approfittato, cioè noi che avevamo mangiato una zina in tutti e due anche troppo, no? E lei capita, oh, è tutto a pezzi, non è possibile, gatta, aiuto, per carità, da te a pigliare la prossima volta, no? Chi ci ha mirato regalo a me? E si vede che non la conosciamo, è figliola, ma quando andiamo la ciappa se si abona, se non è la ciappa, se no non è figlio. Ma è così, Giovanni, è così, io a voi che hanno menato non bene, me la posso marinata, o me la pongo sotto sali e da poi piano piano me la mangio. Compreso il cavolo un capo, quando proprio me la menato non bene, non so come ti va, allora me la pongo sotto sali, compreso, la pongo sotto sali però fresca. O se non la posso marinata, che mi piace pure marinata a me, però quando è fresca, tu la cavolo un capo, l'apri e invece con le mani me la apri in due tranquillamente, senza infasciarla. Invece quando è un po' cucoso non rimane più muta e non fate. Era un po' razzetto il coso e poi la condo con l'utero e me la bagno marinata. Rimane così, no. Non era fresca lui, non era fresca. Sì. Non era guascia, però non era fresca, è la roba con sei fritte, fate che sei fritte, ma io mi immaginavo. Mi immaginavo perché sembrava proprio di quella piccola gatta, non grosse come quelle che abbiamo noi, no, sono un po' piccole, no, ma sono saurite, ma dice roba da fuori, roba da fuori, per cui senz'altro è stata dopo che sono venuti magari sempre in fritte, e qua li hanno messi a vendere, dopo erano riscongelati, per carità, grazie. Fuzziluccio, si lavora in un frigge, da poi tu considera il frigorifero sulle barche quando le hanno pescate, poi quando le scarichi un altro frigorifero, poi le vendi e andano in un altro frigorifero, tanti voi si l'hanno congelati, l'hanno in cucci, cucci, è logico che la graviglia che va a pizzi, a chi non è fretta. Come ho messa, ho visto, no, questa non è roba fresca, per cui la tassaglia tua, la cucci. Io che te, vedi, se tu l'avevo mangiato, credo che l'avevo una pataria, grazie, l'avevo la pomata, grazie, io guardo quella pentola per un condimento, tu per far vicino al posto, grazie, grazie, oggi è in posto una puntata, invece che tu passa a risare, grazie. Sarà per la prossima volta a trovare roba buona, riprendi lui. Positivo, no, io sono franchi, mi sono comportato, eh. Anche a me quando entro a peschereccio e coso, mi migliora il coso, e va tutti i parenti che mi travagliano e cosa, la faccia di menura, molto d'ora, e mi chiama poi di sabato, cosa, ma voi vedi c'è Salvina che c'è, a voi. Allora ha fatto un bricchio e me l'ha coso. E no, la verità non mi compareci mai da lì, dai, a chi me lo razzene. E la capo se per razzene frecca che è appena entrata, compreso, lo mandano in Puglia, quando entra in Puglia mi chiamano e me la piglio. Me la razzene, dai, me l'ha sempre regalata, voglio dire, fa conoscente che faccio, a dire la verità. E a volte mi date pure un bel, non so cosa farne. Però me la in frecca che proprio la voi così. E poi se mi capite giù solo e mia moglie mi ha dato una cascetta, dopo vado a pigliare una cascetta, mi ha chiamato, una cascetta mi ha dato un altro manzano a lusso. E ha detto da casa non sapevo cosa fare, allora ci butto un poco la giugotta, ha detto vai, falla in pezzi. E l'altra che ho iniziato a punirla, ci butto, ha scavato un capo, ci butto a sotto usare e un poco ci ho fatto marinata. Perché una cascetta la vivo, la cascetta da cazzo, si cucchiere, si chia, ma non so come ha fatto, roba fresca ne sono mangiato, io pure andavo parecchi anni fa, andavo e mi era la tiene fresca fresca, lo mandavo, andavo, quando la provava lì e la gallina vera, ma va, no, a tutti, non ti dati, ne salvo che non frega alcuno, e tra chi trova niente io, ma se no, no, oh, assolutamente, ma la chiusi, sai cosa già, oh, ma prima io ne mangiavo a vino. Ma lì c'è fatta il chip, dove sei? Eh sì, io a volte mi chiama, ne ho trovato pure 6 mesi romanzano, mi ha voluto torra a Robusco. Chi mi ha chiamato, mi ha telefonato, e sono comparato, e ha figliato, me l'hai data, compreso. Sempre gente che conosce, parenti della parte di mio figliolo, che mi trova, poi mi era usata, addirittura era un guocco, era un peschiericcio, quasi nella Sallina, ed era guocco, ed era in Chivi, e a voglia, poi era Diana, a parte lo seppito, la Diana ha detto tanto di pesce a tutti, sai, imbarcati, che sono lo peschiericcio, a parte quello, ha dato un tonto di pesce, che da quelli se lo vendi, se lo date, non lo regale, fate su i buoni, compreso come ti portava io mai. Ma adesso poi tutti i gambati, non è come se prima, no? Ma sai, forse te la metti il bavolino, no? Mi hai picchiato un sacco di voce, andavo lì da noi. Niente, ma non mi so come è andato, però io andavo sempre, quando rientrava, mi lo dizia, vedi, a talora, e ciò qui ha, e grazie, ma a cassetti, allora faceva il campiglio. Ma non si andava pure a mani busciacche, non si andava, per cui, ma se si è rimagnato qua per una idea, però va un po' difficile, capito? Ecco il fatto è, ma che mi sono vengono, non pure tanto, mi sono pure i cooperativi, là, che è un macello, capito? Salvo e devo dire qualcuno che porto soldi a che caccia la fate pari, come capite già sempre, lo fate il dottore, lo fate, capito? Allora dice, ma se tu fai niente di conosci già un altro discorso, e allora già la ciabbi frega, capito? Che la roba rossa è inutile, ha un altro sapore lui, ha un altro sapore veramente, allora mangi la tira vero. Sì, ma a momento l'anno passato mi è capitato, che lo so da sempre che travagliava un peschericcio, da poi era in figlia. Un sabato cosa ha fatto? Mi ha regalato i nocchi, una cascetta di Sallina, romanzano, e siamo fatti a Russo. Oh, mi chiama la domenica, mi è entrato Zarretto, e mi ha regalato una caccia di Zarretto, e cosa ha fatto? Ho mangiato la Sallina, la caccia di Sallina di prima, la caccia di Zarretto, e tutto regalato, ragazzi, cosa mangiamo tra la Zarretto? Chiaro che cosa fai, non puoi c'è sempre qualcosa di Zarretto e Sallina, no, certo. Prima, comunque prima da andiamo qua a Milano, la fa magari un po' più difficile, però prima andiamo qua a Milano. Poi da poco ci prende una persona che veniva sempre a campagna, e quando veniva regava roba proprio rossa, e roba fresca a vino. Una volta mi ha regato 5 cassette di acciughe, avevo fatto gli acciughe in campagna, non chissà che sono. 5 cassette, se ricordi, una di mamma e capicelli, sale, non ti dico niente, poi abbiamo un sacchetto di sale, stavi a poco di non l'avevo mangiato, io non ne mangiai, ma stata regalata da voi, capito? Ma ci ha regalato, si può immaginare lui. Però allora si può acciappare, ma la ciappa è solo chi ti fa le conoscenze, boh. Positivo, no, io allora poi avevo fatto dello zoo che travaglia tutto nel peschericcio, e sicuramente la barca della Sallina è dove la Zigani, e allora tu se la vendia pure la fatica sotto usare, no? Quando non la vendia la pure sotto usare, e allora sicuramente lo trapoggio lo usare, no? E allora arrivavo a tipo usare il fone, che si è un poco di sacchi, per la zia. Addirittura la zia direttamente le cose, la macinella fatta, avevo già appunto la sardina dentro, questa bambina io l'ho fatta, me la zia, qualche macinella me l'ha fatta già pronta addirittura. Vabbè, ora rispetto l'avevo fatto, un anno l'avevo fatto, sì, con cassetti, ti pieno un po' di secchi, cazzo, in campagna, Maria, cazzo. E poi avevo un contrapeso, e carta, e poi era un bene, carta, era buona, era buonissima. Io non l'avevo mai fatto, però mi ha detto, bisogna farla così, perché c'è persone che macchina sappiamo fare, già l'avevo fatta, ma sono regalato meglio. Ma se tu ti hai regalato, ma chi non lo... Noi, dai, magnuna, tu, da voi, dai, tutti, capito, per cui, però l'anno l'avevo fatto meglio. E sta chi non ti dico niente, lì, la canto nevoria. Però c'è persona e rispetto era in mezzo e per cui bucato il tutto. Così lo quando guardi a mi campeggia, lo guardi birra, lo guardi quitti. Come con la buona mi compare Capino. Niente, niente, lui ha una madre che ci andava, hai spazio tra la sera una cosa qui, hai spazio, ma, ah si sì, papà sono venuto, ma sono venuta va. Lo so. No, io già gli ho fatto un bel, mi dice dai, mi sto per piccatore cose. E voglio i secchi e mi buccavo i secchi dalle menti, per alimenti, chi c'è che tratta in pasticceria, poi fare il coso, tipo i secchi della pittura, però sono per alimenti. Chi si mi buccavo? E poi quello fatti un tappo di polistiroro, che ho buccato il polistiroro, fatti un tappo. E rotondo a misura con i rosicchi a capatella, lo disegnavo con pennarello e lo tagliavo iutro e lo puniva in cascia. Poi la patrilla l'ho preso, vi ponevo un'impulla piena leva da 2 litri. Ho preso, vi ponevo un'impulla e non dovevo fare cosa, un'impulla da 2 litri piena leva e me la pone appeso sopra. Hai compreso? Ehi, noi avevo fatto 30, prima la tava, poi la fredda sopra. Grazie, siamo fatti poco di cuore, tra Vagnarito, grazie la carità, grazie. E vabbè, a Cappiati, è un bel dietro di giardia, invece a noi no. Oh, tutti i primi avevo assaggiato, magari, a fare a Roma, però dopo l'avrebbe ciuffata e no. Tutti i piaceri, allora l'ho tutta regalata. Fanno per tutta chi secchi, mi da 3-4 secchi pieno di chi si mangia da 30 litri, da 30 chili, puoi immaginare. Un bel bene abbiamo fatto, e per cui, dai, sta regalata, ecco sì. Grazie, e tu? Tanti anni fa paravo un masano pizza a questo giorno, allora già te lo da dire, mi aspettavo le vacche che rientravano. Magari tra gli amici un coso e l'altro e per cui è difficile. Lui si è fortunato e si fa parenti per cui quando è da Galesacina si è aggravato, ecco, meglio così. Di più, no, a me mi ha dato l'esempio, ma lì sono faccio problemi, la dallina gliela buco sempre. La buco sempre fresca, di la verità, che la buco fresca, mi chiama. Comunque ancora, dai, a canno no, mi dà niente, mi pare di no a canno. Mi pare di no, dai di no, a canno dallina ancora no. Non mi ha chiamato. L'anno passato a Buffera mi ha recato a casallina, che dopo non sa più cosa fare neppure. A casa no ancora, però già sicuramente no. Comunque già, ancora l'ero di qua, mi giuro già, e come chi me la buca? Mi chiamava sempre, ma voi vieni a prendere, trascendi che c'è che ne ha portato due a casa, una a casa, mio suocero. Compreso, poi va, lo fatto è che invece se no chiede tempo, c'è un il fura vane, c'è un periodo del fura tra la gente, ecco, pure il isso, non è più il pescherice, però pure quando era tra la gente era anche lui, tu mi hai detto travagliato pane nel pescherice, la zia non mangiare per la zia, ne compreso, non aveva problemi, poi era un padrino, un peschereccio, la buccava, paghisso, compreso. Vabbè, ma si può buffare qualche chicchieretto, qualche buccia, si può buffare. Un chicchieretto, no, a me mi ha già messo la cascetta, ho preso, ma a me mi ha già messo una cascetta direttamente. si può fare, vedo un po' lui. Certo, io ce l'hai. Sì, sì, no, me lo posso aprire sempre, vedi, no, cosa, state a voglio usare, io ve lo usare, me la faccio sempre, perché me la reggo usare, io sono il punteggio, e me la faccio usare in garage, no? Ah, tu prova a reggere, di no, una cosa, se cade il capoteggio in questa impresa, e te la posso usare, hai compreso? E come, però me la deve, e poi piano piano io me ne cavo e me la bagno, perché il papà, so usare, vivo quasi un anno, mi fa sempre, e me la dico, l'ultima mai che ho venuto, Gian Marie, me la minimo 3 anni, me. Era di 3 anni, ed era sempre buona, E vabbè, quindi se magari, caschi, o qui, ma un attimo, tu chi, dove se ne porti, se la tira, capito? E allora, se la già poi, ma, fa accappare, me la concedi, fino a che ritorno si può. Non si può funzionare una cosa del genere, capito? Ma fare la campagna naturalmente mi piace bene. E per cui, se è possibile, lui a usare, no, per dire, dici lo torna. Ehi, a voi che mi è capitato pure la caccia della rosa. La rosa ti piace, ma a me mi piace, ho portato tu usare, mi piace. Fatta, ho fatta marinata, la rosa mi piace, lo fattessi, La rosa ti piace a te. Faccio tutto, mangio io. Mangio di tutto, lui. Oh, adesso io capisco così picco. Positivo, positivo. No, a me mi piace pure sottosare, ho fatta a cosa la rosa, è come buona a me sottosare la rosa, è più matura la sallina, Mi hai messo la sallina, lui. Buca la vista, che è meglio, dai. La sallina è la buco io, a volte, ti sono presente, a volte me la regala e mi la regala all'improvviso e non so come c'è più mia moglie, io non so come cosa farne, a volte la regalo a cosa, che a fianco, già lo conosci, gli italiani di Nattemi, a Roberto, quello di Matteo Caditto. La voce la tocca, la tocca a ete, e se la fate nel russo subito. Io se non l'avevo mangiato con Matteo. Certo, allora via la cabina, se soffetti lì. Ma trovare la vita, ma dai, sono la che c'era, Matteo, ma quello ci vuole a bovini. Cattende, trovito. Ma già state che avevamo tutti, se soffetti la vita. Ma di tutto, di tutto. E tutto, capo, insomma, l'anni, che sta con passare l'anni, veramente, 4-5 anni, di tutto si mangiava qui, di tutto, è a crepatura. Lo so, ma marinata non l'hai mai fatta, non l'hai mai assaggiata marinata, io mai. No, non me la metto lui, non me la metto manco come te, per essere sincero, ecco. Aspetta, se mi capiteggia che tanto la preparo la moto, se mi capiteggia una vaschetta della moto, se mi capiteggia una vaschetta della moto e te la avvizzino, tanto me la date e te la avvizzino, una vaschetta, ti devo dire ti piace più della Russia, poi te la moto è tutta pulita, no? Frecca, devo dire appena piccata. La apri la cosa, la pone sotto al dito, fa giù duro nella cave, la pone asciutta e la poi la condo sul lozzo e mi pongo a usare, puro dai, a usare. E lozzo è la ziotta, la pongo a moglio, fa diventare dotta, poi la condivido a fine ziotta. Con l'uso e la pongo su tutto così, e subito pronto a mangiare, l'indomani la puoi a mangiare, con pesce. Beh, altri cose si può fare, vedi? La vedi, magari mette la base, ci prova, e la fa, e riesce a farla, capito? E io ripeto, la voce ha visto questa persona che ha regato, arregava da Gina, di tutto arregava, di tutto. Per cui in casa si sono vedete, poi ha regato un riacciuga, ho fatto pure l'acciughe. Ma erano, io non l'avevo mai fatto, ma io con molto paragonetto l'avevo fatto e credo di riuscire a avere buona, ma buona veramente. poi fatica, beh, incatta, hai capitato 30 a sentarla, poi a una, sali, peso, e ovvia, travaglio, però il brio da poi è buona. Cavalinata a me mi piace un bene, una cosa, a chi è tutta te, io te la capo io, questa la motivo che non vede male pulizina, l'apro in due, da capo la cosa, invece pulita pulita la cosa, fino a te fresca, compreso l'apprendente, invece vede entri, e ti dico una cosa, è un po' con un curazzetto, e poi la sento, la bocca asciutta, la sento, tutta la carta è una pacchetta, è un coso, fa il pizzata di ziota, la tutta di ritarisma, la ziota, e fa arrepiare così, no? È la buona tappata per un luzzo, compreso. La tappa con loro, la voce di buona appena dell'origano, però io non so cosa accorgo, no? Non è mattina sta l'origano, come ripone nell'origano. E tu evidentemente tu gli hai visti, vedi magari allora tu fuori, e poi ci sei riuscito a fare come la batterete, sono cose che bisogna a seppure ingegnosi uno no, a baitare sempre cose a copiare e da una cosa si riesce a fare, capito? E sono così che ogni tanto fate butti a dire, fai questa cosa, eccetera, capito? Va. Oddio, che poi ci faccio arrivare un po' grigio a dire che non si mia, basta restare, dai. I segnati hanno approfittato, scatta fino a una ventina di altri, a Rufiaco, ti puoi immaginare. Se sta ci avevo mangiato in tutte e due. Che dice, ma che una divina in campagna, ragazzi, di Sallina. Sì, perché stanno in Darito, quindi ho iniziato a mia cucina a fa. Ha detto, ma ora Sallina, sta gira, io fermo le spaghetti, ha detto, quella Sallina, ha detto, la bottiglia, te la conto, la spaghettata. No, nessuno, così la ministra con la maglia, una cosa, no, una chiesata, unita, che tanto, vabbè, e te lo vengono un poco a me, erano legati, no, io la maglio. Domani posso che sono cose con la Sallina. Con la Sallina, che spaghetti, con la Sallina. Oh, tutti vogliate gli spaghetti con la Sallina la forma, ma con la rete sono uscite. Ci puoi appena per Poloncino, forma, che poi avete fatto una ventina d'anni fa, sai cosa. Ma spaghettata che è uscita la Dini, con questa Sallina. Ma posso immaginare, io, per esempio, la pasta con le sardine, non aveva mai mangiato, e per esempio non me la faccio mangiare, è buona, e poi bisogna anche saper fare, capito? Magari io si mi compro, però lì so farlo, però grazie a bisogno, io li sai come ti fare così, e come ti pure. E la sardina, ripeto, la pasta con le sardine l'ho mangiata, è buonissima. Grazie a rifacere non ripiarti, così è grazie. Siamo dei soffati, se ne è andato. E noi può mangiare tu Sallina, compreso gli omaggi. La maglia, un paggio di maglia, dai. Lo assai, però gli maglia. Hai due piatti solo le aracoste, i piatti. E l'anghita. Però non mi sa di rigolo, chi sa di cose, si fa un ripiato, da chi sei il rigolo, ripiato, si fa saurita. Dimmelo solo di rosso, di fango, chi sa di rigolo. Chi sa di, è chi sa di rigolo, è tutto un tesoro, pure lui, niente. Niente. Una volta, anni fa, ma un bel anni fa, c'ho vincendo io. E un rio di zucchero, chiaro, anche del pesce, non ti dico niente. Chiaro, bobo. E pure una cosa, un bel pesce di fiume. Chiaro. E chiaro, come ci fatti a me fratelli, a me non mi piace piace, ma è già. Ma ci fatti a me fratelli, una moglie, chiaro. Se ti dico che da voi mi leccavo le dita, erano quella buona, la gaffa. Chiaro. Ma lo sai come non te la faziene, chiaro. Affetti così da te, da me. Ah, il vedo di essere parangere, pomodori freschi, gatta. Gatta, una donna, gatta, lo sai. Alle casse di ricci, prima non li mangiavo. È positivo, ma lo sai, guardi, i miei figlioli se andano a te, e la regala di una te l'hai scatta, quindi così chi li sa che è famanna. Famanna, ti dico. E ti mando sei lasciato in un gioco di qua di foggia, dai qualcosa, dalle pigliate, dai madonna, e lo dimentichi. E la figlia la posso marinare, la posso godere, la posso poi uscita così buona. Ma buona ti dico, è mangiata se l'avemmo. Io quando si andava a pigliare, a foggia, a romacare, proprio la panno, non la giudico più. E andava a pigliarla, certo, la pulita, e faceva perché faceva le cugnate, no? A pezzi, i raggella. Ah, gli ho preso il peperoncino, e le pomacchie fresche. Ah, gli ho preso il peperoncino, si sente un po' come ti fermo la pasta a fuoco, una stessa cosa. Certo. E ci so che c'è, burro è lui, burro. Ma di niente non le piace, il figliolo non le mangiava mai. Mi ha fatto assaggiare da voi, dice, ma mica che buona fiducia cosa. Allora andava a posto, ma casa di pigliarmi. Ma sai, poi noi che per esempio noi romuzzano non romagnemo. Io non ho mangiato in zona di Orissano, in Chivi, di Goso. Però se mia mamma mi ha dato questa trattoria, ristorante, vicino a Marrucchio in Chivi, no? E se mia mamma mi aveva più tante fane, e arriva mi ha detto che mezzodia in Chivi, se mia mamma mangiasse, pagava una fesseria, allora... Ed era vera nel burro, perché si guadagnava abbastanza e mangiava. E vera l'arcilio che si trovagliava con sale, da ogni santadino si mangiava un muzzaro, ogni santadini, ogni santadini mangiava, se non vecchio a mezzodini, facevo romanzano dai nocchi, caricava e arrivava tutti a mezzodini in chibi, si firmava a mangiare e ogni santadini si mangiava un muzzaro. Ma buono ti dico condito, mentre lo condito te lo fa dire in questa specie di griglia, di cose da cucinare, finisce. Mi sono presente, ma saurito, ma buono, guarda, una cosa, ma buono veramente il muzzaro che viene e lo resta, ma buono, il condito mentre lo condito te lo cucinare, è una cosa meravigliosa, io mai. Lo so, è anche mangiato la casa. Cazzo, è inutile, c'è già un po', sono già dei chivi, cazzo, che la fanno, hanno fatto la vita che c'è travagli, no? Per cui i sani fa, magari, se un po' che appallano, per riesco a farlo come c'è fatto niente, capito? Poi di, sono nati i cazzo e lui, e la madre, beh, è buona la roba, buona veramente. Poi specialmente un uso, cazzo, va qui. Cato c'è un condimento, petto, poi a sapere un po' così, e vedrai la cosa piatta a tutti. E saurito, pure il bricolismo, lo coso, lo condiano in mezzo, no? Da questo lo fai, era appeso, meno muzzaro era appeso, compreso un muzzaro, ecco, te lo pisava, no, si decate 400 grammi, 500 grammi, e lo era così, compreso, te lo pisava, no? Te lo faceva venire, capo io, e dammi chicco, buone amichicco, va bene, andate via, te lo pisava, te lo coso, e te lo ponia così, te lo condia, e te lo cozia. Vedo un po', avevamo mangiato ultimamente, un po' anni fa, che era in Cugliari, una crisi, ma era, però mangiare siamo andati a Cabras, a un agroturismo, tutto pesce, tutta roba di pesce lui, cazzo, ti dico che la fine del mondo, cazzo, come ti diventa una cosa, ogni maia e pesce, tutti i tipi da voi lui, cazzo, ne sanno fare, ecco, forse gente del posto per cui sai come te fare queste cose, per cui noi andiamo a ritardi e siamo di dirgli lui. Noi l'anno passato abbiamo mangiato, madonna, cazzo, a tutti i cani, le cose arrocciate, lo mettiamo a far rossino, fura, pure la pure che è buona, cazzo, da fare la grigliata di arrosso, di tutto quella sopra la graviglia, poi di tanto tipo di pesce d'oristano di messo, e tutto quella sopra la graviglia, io marino, va, era buono, ma buono veramente. E ma infatti, è come se noi andiamo per esempio in montagna, no, magari, nuova, ma prima, 30 anni fa, allora lavoravo con la tua scossata, lavoravano, e se si chiedi se a mia 24 noi, pure tutta la casigna, e quando capitava Maurone, cazzo, ti dico chi Sopramonti. Carta, veramente chi... delle tenute, carta, che se chi vuole si fittava, no? Noi andavamo, ma noi facciamo una parte a cui la vecchia cosa mette la base verde, a chi si troppo buona la carica con la cosiddetta verde, la cucinamo noi e noi ci vuole come mette la base verde, ma cosa? Che sì, ma cosa non sarà la partenza, non sarà la partenza in macolo, non sarà chi ci sarà, non sarà come ti dica, che chi sa la carra è buona, maledio. E allora la linea non gli ha la partenza, non gli ha un carri, insomma era... ottima questa carne, ma ottima ti dico, il tarricotto se ne è dato, ma ha detto pure, ma buona che ha detto pure. Eppure era già unita, un bel gustoso, ma non lo so come motivo, sarà un pascolo, un coso, boh. Mi ha ricordato mangiare un buffone a me, e poi cominciare a battere, che madonna, che solo è possibile, ah, dai, qua c'è troppo da fare. Cosa buona, carri buona a buffi, ma già dai un buffone. Un buffone no, non mi è mai capitato, una cosa non si budica, è una cosa, non mi è mai successo, dai, cosa, è una cosa riservata, non puoi toccare, non puoi guai di beccare una cosa del genere, che è successo anni da rito, che qualcuno ha fatto le fotografie, le fatto vedere, e dopo sono andato, a finire le fotografie, e poi viene denunciato tutti i gatti, ma fai tu battere un morflone. No, non si può, è una cosa vietata, è compreso. Ma è vietata, la prima non è vietata lì. La prima non è mai una famiglia di più di 30 anni fa. Non è la panna. Allora, ci sono qui toccati niente, ma prima di tutti si mangiava, di tutto, sai cosa dire? Così no, quando andavo lì con Andrea Multinito, non so se l'hai conosciuto Andrea Multinito, Andrea il Povero, che andava da peggio gli sciroppi, sta tranquillo, senza nulla, non si lasciava rivenire. Si era messa le usciacche di pienava di lui, è tutta roba genuina. Non so qui, io gli ho girato già la so qui. Già lo so che io Maria ci ho girato bene, figlio dottura, già lo so. No, è Montinetto, io riconosco, mi piace lui a Montinetto, compreso. Abbiamo sempre servito a tutti, a Ugo e a tutti i gatti, compreso. E la domenica noi ci andavamo in fare con Andrea. Anche la tuna, la montagna, noi ci andavamo tanto a pigliare dentro il sacco. Allora, quei sacchetti, gli affronti i sacchetti, però adesso qui. Andrea pure non si andava a mano in sciacca però. No, ti dà di pronto, già pronto, pronto a caricare in macchina. È positivo, io lo so qui, già lo so qui. Ma non so come Multinetto l'ha fatto, fatelete cosa. Non lo so, però vi fate solo care mano in Kiwi. Ti libera, bisogna un capusante in Kiwi. Mi fatto via letto, non so cos'è suo, poi è andato a finire, io sono andato a finire in mare, non so così questi siano, boh, se siano sì, niente, se siano in funzione, se è suo, mi fatto via letto, se mi sono calemato. Era tutto roba vecchio, era di Ugo, e i nomi tanti anni ne hanno franco, era, ha lavorato anche per conto suo. Ho lavorato io, quando ero burocratico, anche burocratico, comunque mi sono chiamato per anni. Io facevo servizi a domicilio, più facevo l'autista personale di loro, di Ugo e della moglie, capito? E ero di casa, per anni mi sono chiamato, per cui ero di casa, per cui podia c'era troppo vecchi, invece da voi, ma... Ma una cantata che non mi ha voluto aumentare, me ne sono cantato e me l'ho tutto. Però mi sono cantato quando, va bene un anno che ha messo i limiti a Stafiume, va bene un anno che ha messo i silenzi, aveva abitato pure un terreno, papà, sono così di amendo, non si vive ancora, capirà io, capito? Però prima sono entrato in Fabiano, un negozietto di Piano Menzoni. Da Piano Menzoni sono passato via Caburro e... da cui mi sono concentrato e mi sono andato. È positivo, positivo. Ma ero visto di fiume, insomma, è un pesante battesimo, io veramente mi vedo un bellissimo. È un pesante sì. Sì, ma ha dato tutto, ha preso tutto, va, non ho... Hai visto, per la gola, va. Come ci si dice a me, tutto ha dato, di sopra la torre, tutto ha dato, non ho... Ormai è una certa età, non per fare più e rifiuti, sai, come di solito, c'è voce più nane, più di ventre, per cui ha volato tutto e forse ha fatto bene, capito? Ma uno mi pare che ha avuto un incidente in feo, mi disse il figlio di Moltini, non sbaglio, mi pare che in te aveva avuto un incidente in feo. Fatto, fatti, sì. Non ha più saputo niente, a dire verità, non ha più saputo più niente, è un certo molto, un bel grave, un bel grave. Non lo so, non ho saputo niente, anzi, una salita che torna a Bagliglia, porta a Capusata, là, e dice le cose, non ti dà la LD che fa un massaggio, quindi chi era sempre da Mucchietto, detto ciò fatto. E ve lo voglio domandare in particolare, perché sapeva che era un bel male, sapeva, ecco, e non so, come ci siate, non ci restate, è un bel grave, era, Poi il tuo coso era Salvatore, è stato da Pizzino, Salvatore, so che l'hai conosciuto, detto bene, è stato da conosciuta Salvatore, lo zozza del coso, Corombino, mio Pizzino, mi sta a tu e stato, Corombino, lo zozza. Entrando Salvatore se la risi. È una brava persona, dai, una brava persona, una persona di fiducia proprio, bisogna anche dirlo, una persona quando se lo merita, infatti l'hanno voluto troppo bene, ecco, e per cui lui l'ha voluto bene, ma chi ha fatto dopo i suoi, infatti si è studiato la figura di Colombino, e a Colombino veniva. E tu, Colombino lavorava in accordo, lavorava a Pozzo d'Ora, però la sera veniva a giudarsi quando era di notte, no? La sera veniva a giudarsi a caricare, a settare il materiale, gli ospiti, magari i calzini, eccetera. E tutti, e Colombino è parente pur suo, è parente lui di Ugo, capito? Così che certo, infatti, entrando a voi io mi sono passata a me. La prima notizia che sono venuta a Cucchietto ero io, quasi a servizio a domicilio. E piano piano, con 30.000 franchi allora abbigliava lui, 30.000 franchi. Però quasi a due dimanci che è di supplizio. E la moglie di Mario si chiama Mario Colombino, Mario si chiama Mario, non so che fa niente. La moglie era, cos'era, cugina di Ugo, è la cugina, la moglie di Mario Colombino. E non lo conosco bene a Mario, io che lo conosco, io lo so che mi ha. Infatti Salvatore è stato un bambino netti, dai, di Mario Colombino in chive da Moltinetto. E qua, no, una brava persona. Una brava persona veramente. E poi dice, i capannoni, per me ho sbagliato tutto questo, era Edu, ho sbagliato tutto quanto, capito? Il magazzino a carta. E per cui, quando era bravo lui, lo sai, l'hanno voluto bene, ma chi è bravo, se lo meritava, ecco, per cui, e Ivi se qui io vado, e per cui, la Ivi se ne è andato, tutti. Ma aspetta un attimino, Gio Marie, allora uno era qui atto con l'arca migliora di Colombino, di Mario Colombino, uno travagliava in Pozzo d'Orra, e era no, in Pozzo d'Orra, e poi mi ha detto che è andato a Teccallo, ha detto, ma, non si era saputo nulla, e si era impiccato, e si era mosso un genaro di Colombino, io scontro tempo fa, quasi un anno fa, tre anni fa. Era cognato di Salvatore, uno se ne è piccato di chissà. La prima peraura, non lo so veramente, non lo so, no, Mario, se vediamo noi tanti nomi, quello va a Corino, va a qualche gente, sia, va, lo vedo che travagliato con più salvia, lo sai, a Mario lo vedo cognatino, okay. Poi siamo mette frazzetti con Mario, capito? Per cui trattiamo troppo bene, però questo fatto di incidente non ha saputo mai niente, ecco la prima brano che sono questa gente. Sì, no, è così. Allora, l'altro migliore, lo minore, travagliava da Puttinetto, coso, ma mannaggia la miseria, ma davo sempre di saluti io, roba, allora mi sfugge del nome, lo travagliava ultimamente da Puttinetto, figliolo di Colombino, o del minore. Comunque, poche parole, chi si vede quando era ancora attivo Puttinetto, in chi ripresa niente, era andato a caricare le bacchette, ma è d'accordo, e era lo cognato di Salvatore, era cognato di una minore di Mario Colombino, tuo marito si è ammazzato, ma aiutate a fare il peccato, se mostro me, compresso io mai. Però ci sono alcuni in particolare, sono ci sono alcuni. Anzi, io figlio minore non mi ammetto da mai qui, non si pensava. Con i figlioli sì, perché con la figura la moglie di Salvatore, perché travagliava con lui, travagliava e la conoscete, però ho visto qualcosa che era Fusano, lo conosceva sì, però in la piastra sinceramente non lo sappiamo mai. E non l'ho manco conosciuto, per cui non ti posso dire niente lui. È la prima parola infatti che sono intendente, capito? Era per la via una minore, una poi si è stato pure un maschio, forse chi se lo più minore ancora che stravagliava a fare così, era della pizzina che io era un mio amico come soldaro Mario, travagliava nel fare, no, Colombino, e c'è una pizzina di una pizzina d'anni che la regava, che ero gli acquivata addirittura, la regava in campagna, ha portato ancora credo se detto di attondini, perché mi cognato di pecore e cose, veniva sempre a attondini di pecore come soldaro, mai poi che sono anni fa. E poi io andato a caricare quella chizza, non ho messo manco il nome, ed era qui ho fatto una figliura, infatti aveva rappresentato che era una minore, infatti aveva ragione di altri, era un tipo, aveva 40 anni aveva avuto chizza, un poco cicciottello, robusto era, e poi era una persona in gamba tranquilla, e poi una cosa di faro, questo d'ora a caricare, e mi dice che no, è stato appunto, si è piccato, si è mosso. Poi pensavo un po' di tanto fa, era della figliola di una delle minore di Colombino, compreso, delle femmine, mio marito. Non la riconoscete, ma è una vecchia molto particolare. Magari forse a chi non... La mamma che prima frequentava con me, ma la mamma non... Se vedivo io ogni tanto, per me, così già, quelli chiacchierati, dopo ognuno si andava a tutti su, però il suo particolare non ha detto mai niente da nessuno, mai da nessuno. Comunque ha... mi informa per un po' come se c'è questione, perché venne amata a parecchio di Mucchinetto, Maria Brusco, che è sempre i libri, va magari in pensione, chi sa la stessa parente di Mucchinetto, era parente Mattesi della moglie di Colombino, e sa tutto, c'è tanto un esercito, sa tutto, è da Cattolacciappo. Prova a entrare in ragionamento per cosa ne ci vuole, perché non ha mai inteso questo particolare, mai. Ed è da poco tempo che succede questo particolare. Sarà un paio d'anni, Gio Maria, un paio d'anni, ma non voglio sbagliare, un paio d'anni chissà cosa, eh. È vero, conoscevo me, chissà, mi caricava, cosa, che da voi, lo cognato di Salvatore, dai, il figlio di Mario Colombino, era un po' responsabile, non mi ammetto il nome, mannaggia la miseria, dello figlio di Colombino. Prima andavo sempre a salutare, ma poco grande sta. E mi fugge di no, ma che io non ricordo pure quando era in presa niente, in coso. No, Costanzo, non vede il nome. Ma che è il cognato, che si è piccato, travagliava in Porto d'Ora, di Bardiani, di Baschetta, la Torre Spanser, travagliava sorprese, sono cose. E ogni volta che andate io ragionavo, mi dite cose, e via dicendo, mi parlettava. E una volta lì mi torno andare e mi dice, oh, dice, già un mesetto, mi dice, giustificato, no, non metto manco il nome del Giamma Paghiccio. E giustificato che cosa, vabbè un buon rapporto, per un fatto che conoscevo lo Zuzzaro, che conosceva Mario, ecco cosa ha detto, ho detto un rapporto con Vizio di ragionare, di cosa, no? Se non lo so, se è piccato. Se è piccato, dice. Ma non è muco, se cosa è muco? Se è piccato, se sei suicidato, un po' di barato. Non lo so, vuol dire, se parla tranquillo, cose se così. Ed era poi quando una figura di ma una delle minore, delle femmine minore. Non me la mettono mai quasi quasi figliori qua via, pare che dico sì, figli. E 4 o 5 figliori, erano i minoriti quando noi travagliavamo la sera, quindi alla sera ci stati, qualche di chi non travagliava veniva da noi e bucava qualche po' di là, capito? E giù un sistumerella, violinissimo, e qualche un travava in un comune, come si chiamava il saggio. E venivano tre che venivano a giudarsi, capito? La sera però, da chi finiva dal comune, allora veniva da noi e qua aiutava a caricare gli articolati, capito, della merce. Poi non si sembrava un altro, allora si parava il fantaggioso e era aspettato veniva lente. Però dei figlioli di cose di i colombi non me ne ammetto, anzi quindi un po' via, come si chiamavano, non me ne ammetto veramente, non lo so, come piano, come, già direi carina, che non era, capito? Ah, già, questa persona domani, piano piano, leggo la regione per gli usami di. Sì, no, adesso penso così pure, ho detto pazze. Lo so, dai, poi uno, poi mi aveva detto che riusciva a fare l'entrata a Girano, so, a un figliolo, che poi invece mi ha chiamato e della ritrovata, tutto a posto, tutto si è chiamato, allora si è fatto lo travaglio, tutto si è chiamato, che mi pare che la rolasse in finanza, uno dei migliori, di chi si è messo delle magnifiche, là. E se la recita a rollarsi in finanza, compreso, uno di chi si migliore mi pare, o in finanza, no, in finanza, mi pareva in finanza, non lo so così bene ancora se è in finanza, che uno comunque se ne è arruolato. Io l'ho lasciato di nome, l'ho lasciato, capito, per cui allora magari da voi se ci dirò delle specie di vista, magari non ho saputo di niente, ma sta cercando un sì. Ogni tanto però senza entrare magari in arreglamento eccetera eccetera, io faccio uscire di minori dei figuri, ma chi fa dopo un certo punto si fa via la chiesa di strappare qui a casa sua, capito? E per cui, ma poi li conosciamo tutti, ecco, da minore, però magari sono mandi e sono riuscito a conoscere chi si sbaglia la cosa, ma da Fusano, che io ho detto su Colombino, ma che sono andato un anno fa, ma un bel anno fa, che di questa persona, sai, un figlio di Colombino, e dice, protesti, e forse dice, non mi conosce più, dice, e dice, così, e lei, mi sa, è un amico, e così, ecco, che è trappato, me la mettono in manco, che era lo figlio di Colombino, ti puoi immaginare lui, capito? E per cui sono passato 20 anni che se la metto a viva va. Però a Colombino quando vengo e chi dà ragione, quando mi vede, travagliava la corda ogni tanto, non ripassia la macchina, mi toccava gli anni, lo mandavano un pizzo, io Marino mi passa la macchina, io mi la una pinta, me la remorchiedi, e i cazzo poi c'era giù fatto, gatta. Fanno picchiare la tornata, allora vedi quanti abitava, ma che si conosceva troppo. No, era a Sarda la Felice, se la vagliavano la torre, se a Sarda la Felice era caporale in chiesi, era caporale compreso la Sarda la Felice. Per cui non puoi mancare, capito? Costa Rossi, come si era stato sentito un libro, non lo capisco, e per cui mi pensava, andava e poi la remocchiamo, finia, eccetera, eccetera, per dirti no, capisco. Però rispetto a voi c'è un verso di vista, per cui a chiunque. Allora sono entrato sul camion, trovavo lo scostante, si era buttato in Italia, per cui un bel danno che non si vedia, così via, ragazzi, l'anno sono passati, per cui ragazzi non metta più. Noia. Positivo, no, io lo conosco quando sono andati da Firenze, poi era nei Trojani in pari come Sutter, no? E trattavano per te come Sutter, compreso, ecco una cosa veramente, era pure Nurra, l'altro Mario Mario si chiamava adesso. Nurra, chissà di chi si prese in chiesa, ma te trovagliava con Colombino, ne ha un altro in chiesa, Nurra, Mario mi pare se non Mario, no. Nurra comunque mangia di cognome. Ma chi travagliava da noi? No, in questo torre impari a Colombino travagliava, impari di Fornaci. Mi raccorre, ho capito. Ma mi pare si chiamava Mario Buruviso, Nurra di cognome, praticamente, mi pare si chiamava Mario Buruviso. Però c'è di anche io, ero la piotta c'è di anche io. Ma si può magari non conosci questa persona, ma non mi la presenta, ma... noi dobbiamo lasciare che venuta gente, dai, eventualmente avevo occasione di risentirci. Noi abbiamo occupato tutto il canale, certo un po' di tempo, magari calcolo che vera di me andato a Vicio così. E non mi accusa, ti avevo molti dal canale, vediamo un po' se prima ci fai grazie a me. Grazie! Eia! Grazie alla scusa che mi avevamo lasciato il parcheggio, scusa veramente, vai, devo dare a campo, vai con Luigi, vai, eventualmente sentiamo fra un po', vai. Ok, Luigi, sentiamo. Eia, ciao Gio Maria, dai, fatti un buon prosieguo della serata, ciao. Avanti, grazie a te, ti avevo trascurato, dai, ti abbiamo trascurato. Ecco Maria, ok, alle prossime, ciao, state un po' di cose, no, che ve la cucchiate, ma ci vedo due caffè, avanti a tutti, non è troppo. Eccoci. Già. Va, sono rientrato, va. Poco fa ve l'ho detto un attimo del QRX, perché c'era dei lavori da fare qua, che... c'erano dei lavori da fare, quindi devo tornare là. Infatti c'è un rubinetto che c'è solo l'acqua a casa, boh, non funziona più il miscelatore. Non funziona il miscelatore, gira, gira, così, o se è chiuso, come si chiama, il passaggio dell'acqua fredda. No, negli altri rubinetti funziona, non funziona solo nello svelo, infatti per lavare il piatto è un casino, non ho dovuto fare, rimane bruciati, va giù, perché li ho lavati io e quindi... non ce la faceva, mia figlia ha detto che non resisteva al calore, adesso mi dovuto mettere i guanti e la vado con la facca, vedete come... positivo, no, sto dicendo, se stiamo un po' otturato il passaggio della parte lì, in quel rubinetto lì, mi capito quello che voglio dire. No, lui non sai cosa era successo, che perdeva da sotto il rubinetto. La guarnizione uguale non si trovava, sono andata anche da R, mi hanno detto che sono bussoletti, quindi non si trova più la guarnizione. E allora gli ho fatto la guarnizione col Teflon, ha durato, sì che ha durato, adesso ha dato i numeri, capito? Ho capito. Riprende, grazie, datemi due minutini solo, devo appena una cosa dal cofano della macchina, risalgo subito, due minutini solo, riprende, grazie. Eia, ma noi che fai il flessibile dal muro al rubinetto intasato? No, grazie, non penso proprio, è proprio il rubinetto che non funziona, dai, stavo aggiornando i numeri, vuole cambiare il gruppo, cazzo brucia, sai? No, mi c'è l'abbricomento, io l'avevo preso lì, però... minori, c'è uguale, c'è piccolo e più grande. grande, io penso quello più grande, quello che puoi attaccare alla vasca, è più robusto, capito? E aguanta più la temperatura delle bagaglia, alle guarnizioni, hai capito? E io ho preso quello e gli ho messo quello, perché il braccetto io ce l'ho applicato sotto il braccetto che sposti, capito? Ho capito. Quanto l'ha pagato? Quando l'avevo pagato, se non mi ricordo male, mi sembra 38 euro. Mi aspetta che guardo, c'ho il catalogo qua. Aspetta che lo prendo. Chi è Luca? Tu sei qui. Luca, tu sei. Luca Malinconia, tu sì. E la torre, così. Grazie. Ehi, aspetta, sto girando a pagina, chi ti va sino, che allora, miscelatore, questo, come ce l'hai con... sembra un tour de pitch. Dico com'è, perché qua ci sono anche col becco alto in girato, attaccato al fianco o sopra, chiamato, è un becco di cigno, chiamato, infatti quando... normale, normale, praticamente verso giù. Ah, ecco, eccolo qua, allora... chiamato, appena si è ripartito, ma non rispondi. Capito, quello della vela dove la vi piace. Ella è in cucina e io ho preso questo che sotto attacca il braccetto lungo, no? Invece attaccarci lo spruzzino come quello della vasca da bagno, se non c'è la doccia. Attacchi il braccetto e io ho preso quello perché è più grosso, è più robusto e resiste di più alle temperature, faccio la video. C'è qualcuno che vuole entrare avanti, se c'è qualcuno. Nighe du doppio room, buonasera e ben sentito dopo una marea. Sono tornato io. Chi è questa bella voce, questa voce che è bianca, di chi è? Sei Gianni doppio room, no? Ben rientrato lui. Poi Rita, beh, come va? E Gianni che bene, bene, tu? Bene, grazie a Dio, Rita. E tu, lavorando sempre? Sì, sì, sempre lavorando, per quello che non mi sono più sentita. E vabbè, meglio così, dai. Più soldi entrano, Rita. Lo credo. Mi adesso rientrando da Cagliari, di Laura. Cappa, in camper siete. Di positivo. Dove ti trovi? Adesso siamo passati a Predagne da a lavare in camper perché era tutto pieno di conferiti. Andava, parlava da cosa c'è il camper e tu ti sei fatta nomade. La zingara. Detto nomade, non zingara, i nomadi sono altri. Già! Dove vattessi di zingare i nomadi, dove vattessi? Non è vero. I nomadi sono quelli che si spostano da un punto all'altro, ma non sono zingari, si vestono bene, stanno bene, hanno il lavoro e tutto quanto. I zingari sono gli sciaccatori che fanno tutti i capperi fasciati, tutti brutti, non si lavano, ma quanti chi li chiama? Ehi, guarda che ce ne sono i vari prezzi, c'è anche da 28,90, da 24,90, capito? Ce ne sono parecchi, là, di vari prezzi, 34. 4 euro. E la provvisione di buoni, 40 euro, quanti? Alla prossima! Può darti dopo! Ehi, Avila, ci sentiamo, buon lavaggio! Ciao Rita, anche Stefano! Ciao Gigino, Vulcano, ben risentito! Ciao Stefano, anche a te! Mandare saluti, ero a Bari, da Rocco, capito? Eravamo a pranzo e Rocco era lì con la moglie, col coso, c'era anche lui, e ti manda i saluti, capito? Grazie, contraccambio. Rocco Aquila Solitaria. Se mi ha copiato è Rita. Sì, sì, ho detto Rocco Aquila Solitaria. È positivo, era lì con la, col figlio, la moglie del figlio. Era venuto lì a questo pranzo a fare, capito? Da positivo, stamattina mi hanno mandato i saluti per mandarmi a te quello Aquila Nera di a Cagliari. Ah, positivo, positivo. Non so se hai visto, eravamo in quel pranzo, non so se hai visto qualcosa, quel pranzo lì albero bello. Ma mi dà sidro la parte? Ho letto su Giovanni Originale. Piatto è lui. No, erano incontinenti, ti rispondo io, erano albero bello. Positivo. Mi dà sidro la devono fare tra poco. E due. Non era oggi, Gigi. Ma ci sono i trulli, eravamo. Sì, è positivo. Probabilmente lì non ti cupi, Gigi. Rita ti ha chiesto se era oggi, no, il 22. Il 22, che cosa? Le dell'acido, il 22 di giugno. Non è detto Gianni, ho fatto un copiato. Che arrivo di lui? Basta, ma arrivi, io ti sento bassa bassa. Adesso Gigi Ariero, non mi ascolti in quelle coordinate, cambio. Cosa hai fatto adesso? Sei arrivato a Santiago 9 quasi. Aspetta, Gigi Ariero. Ah, devi mettere la lavatrice in macchina allora. Ciao Rita. Ciao Rita. Scusate, non ho salutato. Buonasera a tutti. Provo a indovinare chi sono. Ehi, Antonio Bombolo, come va? Bene, va bene. Hai visto? Ho fatto un po' di memoria e mi ha riconosciuto. Va bene, lì. Scusate. Niente, ma figurati. Avanti, lui. Sì, a positivo. E le bambine, Rita, aspetta, una si chiama Martina, una è Martina e l'altra è Beatrice, no? Beatrice è mia nipote. No, Giulia, Martina e Giulia, e crescono lui. Una ne ha 8 e l'altra ne ha 7 di anni. Rompono in continuazione. Positivo, dai, di Martina me la ricordo, ce l'ho sempre in mente quel nome lì, di Giulia che non mi viene mai. Chi era la più grande, chi è, Martina o Giulia? Martina. Positivo, ma sono lì con te adesso. Positivo. Ma tu sei a casa o in camper? Ah, positivo, ah, l'ha fatto in giro, ma per la fiera o per che cosa? La fiera, perché la fiera c'è, no, ce l'hai fiera a Cagliari. Annaggia la miseria, era la fiera venerdì io lì a Cagliari. Ero lì a Lazzaretto, ero scaricando, capito, a fianco alla fiera. Attaccata là al mare ero proprio. Positivo, no, io sono andato via intorno alle 10, alle 11 mi sembra, venerdì da lì, dove c'è la fiera, là. Non è. Lui era. Positivo, positivo. Ah, stamattina c'era. Ho capito, ho capito. E allora era in vettura, Ho capito, no? C'è camionaro? Positivo, positivo. Ok, da se sia su fa. Ma tutti in Grecia siete andati lì. Also geht gut hier, ich bin dran mit vier Element Yagi. Ciao a te, ho detto tutti quanti camper insieme siete andati su. Brava. Meglio pochi buoni. E vabbè, là. Ciao va bene. Com'era la fiera? Di Beatrix Monza. Era lo stesso. A livello alimentare o oppure c'era di tutto. Insomma, ve l'avete beccato due fiere allora. Vabbè, l'avete preso per la domenica. Il tempo com'era, aspetta? Ho avuto tutta la notte, alle 4 di mattina mi sono sempre stato per una dirotta, lo stesso, e tu vedo giurata, si blocca domani, invece poi già c'è un po' sistemato, stasera si sistema. Ciao, con Roma, paga, va bene. E la zona d'Italia dice sempre caldo, di solito, invece un po' il tempo sta girando, non si ricupera più nulla. Rilascio tutto a Graziano che parcheggia, ma si fa Graziano. Ma non riprendete, rimane l'ascolto che sto guardando cosa. Ah, ciao Stefani. Ma se hai preso quella di Macomè alla fiera, c'è anche a Macomè oggi la fiera, hai capito? Molti sono andati a Macomè alla fiera. Se entrando e rientrando mi fate partire anche a Macomè. A Bonotrao c'era la fiera, penso che sia a Bonotrao, credo, Duccio, se non lo so. Comunque oggi c'era, molti sono andati da qua anche da Ottava, sono partiti per vedere la fiera lì a Macomè, capito? C'era di bestiame, di cosa, non so. C'è andato Salvatore Barraglico, è andato stamattina, c'era lui lì. E altri che conosco, io so che stavano andando lì stamattina alla fiera a Macomè, capito? C'era anche a Macomè la fiera oggi. Positivo, positivo. Sì, l'avevo fatta anche a Marinaro Borea, lo sapevo che c'era e questa è ma come dai, l'ho saputo stamattina perché me l'ho detto gente che ci sta mandando, dai. Che c'è in ruota? E io e Gianni e Graziano che sta facendo corsa, tutti qua siamo. Grande questa ruota, dai. È positivo, l'altro giorno ti ho trombazzato, già mai visto. Io ho sentito pure. Ma ce l'avevi il baracchino? Non ce l'avevo, ora aspetta, non me lo ricordo, non ce l'avevo, perché l'aria ci avevo con cui e quindi mi sembrava. E ho provato a chiamarti, ti ho suonato, ho provato a chiamarti, però visto che non mi hai risposto, tradizionalmente non ne ha. L'ascolto pure io qua, Costantino. Buonasera Costantino. Costantino Cuore Matto, che un amico mio si chiama così, Cuore Matto, Costantino. Ripito. Andà bene, dai, interessante, vi siete divertiti, avete passato una giornata diversa dalle altre, anzi due o tre giornate avete passato. E già va bene. E domani ci riprende. Capagappa, ciao Costantino, ben sentito anche a te là. Avanti Rita o Stefano, non so chi dei due riprende. Sento altri sotto parlare io. Capito, già ne sento altri parlare, lontananza. Io no. Parte là, ci sentiamo, buona serata, buona continuazione e buon riposo. Là. Ci sentiamo alle prossime, fatevi sentire di tanto. Ciao Ste, saluta anche a Rita e le due bambine. Ciao Ste, perché non lo sentivo più, era lui che era passo, allora si è attaccato alla lavatrice. Ciao Ste, dai, un bacione alle bambine. Quindi si sta chiamando Rita, ma sta scendendo a tratti. Rita! Ho sentito qualcuno a tratti, mi sembra anche Rita. Hai visto anche Rita all'interno, ma non la stavo riconoscendo, da troppo tempo che non la sentivo. È positivo, positivo. No, io un giorno l'ho sentito, ero lì in zona di Oristano, mi pare che in zona di Oristano, sento Rita, mi sembra Rita in faccia. Ed era lì che era in zona di quelle zone lì, era da. Ah, era in campo. Positivo, c'era l'intermission lì in Santa Giusta e cerchiamo di chiedere, l'ho conosciuto dalla voce papperina che chiedeva ai colleghi se la posso passare, la voce l'ho riconosciuto. Ah, attenzione, di Vulcano! Sì, ma fa benino. Ma anche la mamma chiamava gli altri ai colleghi, chiamava che stavano viaggiando in camion, siccome era la strada. E vabbè. Ma lui secondo me ha anche la sua voce, il tipo di voce che ha lui, eh. E così sì, così sì. No, ma è quell'apparato che è così, te l'ho provato io da me, mi fa a me pure Papperino. A me? Aspetta un Papperino. Così sì. Aio, grazie. A te scendi. Ehi, mi sto sfogliando. Ne hanno 4 però, io sono andato e ne avevano 4, la trovate a Porto Torre, sono pagati 10 euro in più, ma me ne sono comprate lo stesso perché mi servivano più luci. Ho pagato 45. Perché? Avanti? Ciao, ragazzi. No, non devo sapere se sta facendo questo microfono, e come lo c'è? Scendo abbastanza bene con l'effetto ecco, e buonasera anche a te. Allora va bene, d'accordo. Alla fine di una cosa, l'antenna l'hai sistemata? No, c'è troppo alta, bacia appena. Troppo alto come volume? E no, com'è, così. E cosa ti stavo dicendo? Cosa mi stavi dicendo? Stavo chiedendo, se l'antenna l'hai sistemata? Sì, sì, si vede perché. No, sto chiedendo io. Volevo solo sapere se avevi avuto modo di fare il lavoro che ti eri prefisso. Sì, sì, l'ho fatto oggi. L'ho fatto, è venuto Luca, mi ha dato una mano. L'abbiamo fatto insieme. Messa la lenza per radiare, tutto quanto, tutto fatto. Un po' di lavoro c'è stato perché c'era il pezzo di radiare dentro, dovuti trappanare, eccetera, eccetera. Per togliere fuori le boccole che c'erano, spezzate. E allora, insomma, diciamo che abbiamo finito giraghetto di gira verso l'una e mezza, 2:10. Poi sono andato a chiudere la porticina, vado a girare la chiave, vedete, girava la chiave a vuoto e non chiudeva. Oh, abbiamo dovuto smontare la serratura, tutto quanto, c'era quella chiusa. Certo, succedono sempre delle cose strane alle volte. Non è possibile. Ma cosa hai dovuto fare? L'hai dovuto buttare giù tutta l'antenna, l'hai fatta da sopra quella specie di casetta o torretta, cosa è? Ma lì si è riuscito a fare il lavoro. Allora noi siamo saliti sopra dove c'è l'antenna, l'abbiamo abbassato l'antenna e arriva l'altezza d'uomo, capito? Abbiamo fatto il lavoro, poi l'abbiamo risolverata, i radiali sono tornati in tira come erano prima, abbiamo serrato i bulloni e via. Ho capito, sì, va bene così, non ci sono problemi. Ok. Avanti lui, tu già mi ascolti bene lo stesso, confermi? Ciao lui e ciao Graziano. Avanti lui. Comunque giù, ti devo dire una cosa, che da quando ho messo i radiali, per stazionare hanno abbassato notevolmente, da 1,5 sono scesi a 1,1. E beh, ok, lo credo, hai fatto già il tuo tempo, già lo credo. Se ci mancano i radiali ne subisce in qualità il piano influenzente, è ovvio, no? Adesso hai messo i radiali e giustamente hai risolto tutto, certo. E va bene così, meglio così, dai, almeno speriamo che non ci sono un po' più, ve lo volete. Adesso li avessi comunque di alluminio pieno e dovrebbero resistere anche di più. Da quanto sono quelli? Da 8 mm o da 10 di diametro? No, è giusto. Da 8 sono. E praticamente gli ho messo anche la lenza adesso per tenerlo. Buongiorno Giulio. Sì, chi è? Antonio? Sì, capo Giulio. Come senti? Male ti sento. Ti sento male, non è con la radio che avevi ieri. Butta la radio. Sì, è migliorata. messa male. La miseria, se vuoi fare cosa rasca? No, c'è qualcosa che rasca, io la sento così, non so cosa dirti, vediamo cosa dice Luigi. Luigi, Luigi, non lo sento, grazie. Ciao! Formaggi. Sarà un qualcuno che viene, non so. secco. Una amicola, dico lui. Ma... sempre mi sei da mangiare, eh. Cecina. Ciao. Che la glicemia alta, no? E allora, cuoricino, guarda, visto che ce l'ho, ma parmi un altro poco, è sempre burenne, parmi un altro poco, è sempre burenne, e quasi quasi non ti dà da le mani da Antonio. che buccia. Quanto mio bombo sono? Ma cosa tu mio bombo? Che fa così? No, te lo giuro, Giulio. Te lo giuro. Ah, vabbè, allora stavo dando un microfono suo, o il baracchino suo, non lo so. Comunque, adesso già ho capito, adesso già detto al tuo, adesso ci credo, sì, sì. C'è un pochino di eco anche, però non è il garage è sempre il migliore. Comunque già si capisce quello che dice, però non ha niente a che vedere con Gara, se Gara è tutta l'altra musica. È come da giorno alla notte. Ascolti Carmelo Formaggino sulla Pennino Toscano, qua a mezzo a queste gallerie sulla Firenze Bologna. Ti sei uno già vedo che sto Graziano. Graziano, ma che c'è te, siamo lì. Attenzione Carmelo, se ascolti l'isola della Sardegna che chiama, cambio. Carmelo, ascolti la Sardegna che chiama. Dopo dai, riprendo io, vi lascio, dai. Chiudo, ci sentiamo. Ciao Gianni, ciao Antonio Bombo, ciao Graziano e Luigi che sicuramente ancora l'ascolto. Alla prossima, ci sentiamo, dai. Ciao Luca, anche se ci sia ancora. Alla prossima, riprendete e poi chiudo dopo finalino, vai, riprendi. Ciao, ciao, buona visione Giulio e buona continuazione di serata, dai, avanti, grazie.